in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Ieri i giornali non erano in edicola perché era il giorno dopo il primo maggio, che è il giorno in cui i giornalisti della carta stampata non lavorano, ma come sapete hanno lavorato invece i giornalisti di Radio 24, quindi sarete un po' tutti aggiornatissimi su quello che è successo venerdì e anche su quello che è successo ieri. I giornali rincorrono un po', quindi soprattutto con commenti e un po' la cronaca di ieri. Per esempio il Corriere della Sera titola, che è il giornale per eccellenza di Milano, Milano cancella la ferita dei violenti, perché ieri chi si è svegliato presto, io alle 8 per grande curiosità sono andata proprio nella zona di via Carducci, via Vincenzo Monti, piazza Conciliazione, la zona che tutti alla televisione avevamo visto devastata da Corso Magenta, devastata dai Black Bloc, e era veramente incredibile, perché l'AMSA, praticamente l'agenzia qui a Milano che si occupa delle pulizie delle strade e della raccolta dell'immondizia, aveva già pulito tutto. Le scritte, naturalmente, per pulire le scritte ci vuole più tempo, e ieri sono scesi in campo i volontari, e qui la foto notizia del Corriere con appunto alcuni di questi volontari che puliscono le scritte sulle vetrine. Il commento principale sulla prima pagina del Corriere di Beppe Severgnini: la forza tranquilla di una città, lo avete forse visto, impazzava un po' in televisione Severgnini nei giorni scorsi, la sua tesi è questa volta bisogna veramente colpire i responsabili. In effetti ci sono stati 5 arresti, tutta questa è cronaca che appunto trovate nelle pagine dei giornali. L'altra fotonotizia del Corriere è dello scudetto della Juventus, avete conquistato con 4 giornate di anticipo il 4º scudetto di fila, e la foto è dei giocatori della Juventus che portano l'allenatore Allegri in trionfo. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, Expo debutto oltre le attese, si sceglie quindi di vedere veramente il bicchiere mezzo pieno, perché sapete la cifra dei biglietti venduti è stata di nuovo innalzata, siamo arrivati a 11 milioni e soprattutto i primi 2 giorni, perché Expo ha aperto ufficialmente venerdì 1 maggio alle 10, come avete sentito dalle cronache in diretta di tutti i nostri colleghi di Radio 24, e sono state probabilmente circa 400.000 persone nei primi 2 giorni, ed è veramente un record. PM in campo dopo gli scontri, questo è l'altra riga del titolo principale del Sole 24 Ore, perché come vi dicevo sono già stati fatti 5 arresti. E poi il commento del presidente di Confindustria Squinzi: un'occasione molto positiva per l'economia dell'Italia, perché questo probabilmente alla fine davvero sarà, nonostante tutti i gufi. Tantissime naturalmente i reportage, perché anche il Sole 24 Ore ha mandato i suoi inviati, i suoi giornalisti direttamente a Expo. Per esempio Mariano Maugeri ha parlato con il visitatore zero, che ha percorso il decumano, quel lungo viale. E poi c'è l'intervento, come ogni domenica, dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, che riporta un po' i riflettori sulla questione delle migrazioni, dei migranti, delle persone che cercano di raggiungere l'Italia e poi dall'Italia probabilmente altri paesi dell'Europa, e le notizie di questi giorni hanno oscurato un po' questo fenomeno, che naturalmente non si è sicuramente fermato solo perché i giornali non ne parlano più. E da qui quindi l'emergenza immigrazione, Lampedusa porta di dolore e speranza. E poi, come ogni domenica, sempre richiamato sulla prima pagina del Sole, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che come sapete si concentra su un titolo quotato per dare per spiegare ai risparmiatori, potenziali investitori in questo titolo, chi magari il titolo in portafoglio ce l'ha già, vantaggi e svantaggi di un singolo titolo e dell'azienda. In questo caso oggi l'azienda presa in considerazione è la Brembo. Brembo allarga il perimetro, guarda il business dell'aerospazio, l'approfondimento è tutto a pagina 18. E poi vi segnalo 2 focus culturali di cui ci occuperemo dopo. Da una parte l'intervento di Salvatore Settis, perché ieri c'è stata la presentazione ufficiale della nuova Fondazione Prada, che poi aprirà al pubblico il 9 maggio, che è sicuramente, Miuccia Prada l'ha definita un benchmark europeo per i musei, però è veramente un posto incredibile, disegnato da Rem Koolhaas, l'architetto olandese che da moltissimi anni collabora con Miuccia Prada e suo marito sulle questioni della cultura, ma anche per la moda, e ha unito vecchio e nuovo. e Salvatore Settis, che è un collaboratore del Sole 24 Ore del Domenicale, ha curato una delle quattro mostre che ci sono per l'inaugurazione, che si chiama Serial Classic ed è sulla serialità nelle opere classiche. Quindi non soltanto noi pensiamo che la serialità sia diventata sostanzialmente una cosa dell'arte moderna e contemporanea, in realtà c'era già ai tempi dei classici. E Salvatore Settis, abbiamo il privilegio di sul Sole 24 Ore di avere il curatore stesso della mostra che ce la racconta. E poi anche un altro focus di Fulvio Erace, che invece è un esperto di architettura, che anche lui scrive per il Sole 24 Ore da moltissimi anni, che parla un po' di Milano più in generale, le vette e i luoghi di una città che sale. Con il Sole 24 Ore oggi trovate anche Plus 24, che è il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, che normalmente è in edicola al sabato, ma come abbiamo detto sabato i giornali non c'erano, quindi oggi la copertina è dedicata all'economia dell'arte. Parlavamo appunto di arte perché il 6 maggio ci saranno alcune anteprime, il 5 maggio, però il 6 maggio si apre ufficialmente la 56esima Biennale dell'Arte di Venezia Contemporanea. È una vetrina internazionale che, ci spiega Plus, spingerà il valore delle opere, effetto Venezia sul mercato. Vediamo la prima pagina della Repubblica. Anche qui la Repubblica è un giornale di Roma, però ha un'imponente redazione milanese e il titolo è dedicato a Milano. Milano, la rivolta antiviolenti. Anche, come vi dicevo, anche in questo caso si riprende un po', perché ai giornali è mancata una occasione di raccontare quello che è successo venerdì, quindi si riprendono un po' gli scontri, però soprattutto si parla di ieri e poi finalmente della reazione di Renzi, perché sapete che venerdì dalla Scala Renzi aveva detto: io non commento quello che è successo, lascio che a commentare sia Palazzo Chigi, una frase un po' sibillina. Poi in realtà ieri ha detto, il premier Renzi ha detto: sono stati teppistelli figli di papà, e non ha poi elaborato sul tema, anche se forse figli di papà vuol dire tutto e niente. In ogni caso questa è la sua interpretazione. La fotonotizia della Repubblica è dedicata alla Royal Baby, che è nata ieri mattina presto, ma poi le prime foto sono di ieri pomeriggio. E la foto in questo caso è appunto di Kate con la bambina in braccio e di William, che poi è tornato in ospedale alla sera con anche il fratello. Londra sogna un'altra D. E tra l'altro vi leggerò poi un commento interessante di John Lloyd, perché sapete che gli inglesi stanno per votare, voteranno il 7 di maggio, e questa nascita potrebbe influenzare positivamente un voto che al momento appare molto incerto. Anzi, addirittura molti commentatori ipotizzano un vero e proprio stallo dopo le elezioni, perché non ci sarà un vero e proprio vincitore. Ma la nascita del Royal Baby, John Lloyd ci spiega perché, potrebbe spostare l'equilibrio verso il partito dei Tories, quello di Cameron, che è l'attuale premier. La Stampa decide di dividere la prima pagina sostanzialmente in due parti, con due foto, una bellissima, l'altra meno bella ma molto indicativa, che è di una delle macchine incendiate, e la didascalia dice: il brutto dell'Expo, auto incendiata in cendro, e poi il bello dell'Expo, il padiglione cinese, che sapete ha davanti un prato di fiori bellissimo. Quindi Milano e l'Expo più forti dei violenti, la città già ripulita dopo le devastazioni, come vi dicevo ieri il lavoro dell'AMSA ma anche di tutti i cittadini comuni. E poi vi segnalo, ne leggeremo un pezzo dalle pagine interne, un colloquio di Michele Brambilla con Silvio Berlusconi: ecco perché non cedo il controllo del Milan. Sapete, l'altra vicenda, oltre a quella diciamo sul campo, che è lo scudetto della Juventus, alla quale la Stampa dedica il palchettone, cioè quella parte della prima pagina sopra il nome del giornale, il poker della Juve, storico scudetto firmato Allegri. Però appunto l'altra vicenda di questi giorni calcistica è quella della possibile vendita del Milan, ma Silvio Berlusconi nelle ultime ore si pensa avrà spuntato comunque di continuare a detenere il controllo del Milan, perché gli resterà una quota del 51% e resterà anche presidente, così ha spiegato anche a Michele Brambilla. Il Messaggero: l'Expo va, risposta ai violenti, quindi anche qui bicchiere mezzo pieno, cioè la violenza ovviamente bisogna tenerne conto, però anche della reazione di Milano. E anche qui la foto è quella di un volontario che ripulisce i danni i danni ieri. E poi vi segnalo dal Messaggero, ma lo vedremo anche sul Sole 24 Ore, la questione delle pensioni. Sapete, se ne è parlato molto di questa sentenza della Corte Costituzionale che rimette un po' in gioco tutto il blocco deciso dalla legge Fornero sulle pensioni e poi dai governi Monti e Letta. Pensioni, blocco meno rigido, restituzione degli arretrati a rate, le ipotesi sul tavolo del governo dopo la sentenza e la consulta. Quindi questa sentenza non potrà essere ignorata, l'ha detto naturalmente anche il ministro Poletti. Vedremo però come muoversi, perché non ignorare questa sentenza vuol dire trovare almeno, si dice, 5 miliardi per appunto restituire quello che era stato bloccato. Vediamo subito la prima pagina della Gazzetta, che è naturalmente dedicata alla Juventus, scritto IJ e poi 4U a forma di scudetto tricolore Juve, quarto scudetto di fila, bianconeri da impazzire. E ci lasciamo un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali dopo la pausa di ieri in cui non erano in edicola. Il Giornale e Libero hanno titoli molto duri su quello che è successo a Milano. Il Giornale ipotizza, con un articolo di Alessandro Sallusti, la trattativa stato black bloc. Secondo questa ricostruzione, secondo questa ipotesi, possiamo dire il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, ha ordinato agli agenti di non usare la forza per evitare un altro G8, e questo è stato palesemente dichiarato. Risultato: qualche arresto di facciata, Renzi e Alfano contenti, Milano raccoglie i cocci. Però poi nel sommario, anche qui l'aspetto veramente positivo, Expo funziona nei primi due giorni e boom di visitatori. La fotonotizia è uno di quei fotogrammi che abbiamo visto nei giorni scorsi, che ci sono anche sugli altri giornali, ed è un poliziotto che appunto viene picchiato da un black bloc e non reagisce, perché questo era sicuramente l'ordine dato. Le immagini dell'agguato a un agente, le forze dell'ordine che due punti virgolettato, scrive il Giornale, ma sono le dichiarazioni di molti di loro, e del resto ovviamente vedendo le immagini sappiamo che è stato proprio così, mandati al macello. Sappiamo anche che appunto i feriti sono tutti tra la polizia, tra le forze dell'ordine, e nessuno tra i manifestanti. Molti anche in questo caso gli approfondimenti, con anche alcuni accenni poi ai due concerti del primo maggio, che hanno a loro volta destato molte polemiche, soprattutto per le dichiarazioni di alcuni cantanti, in particolare Fedez, che poi vedremo dalle pagine interne. Libero: basta cortei nelle città, questa è un'altra delle ipotesi che si è fatta a caldo, cioè che questo permesso comunque sempre di manifestare nei centri storici potrebbe essere rivisto. È una delle misure che si potrebbero pensare per evitare altri fatti come quelli di Milano o quelli di Roma, ma durante le ultime proteste o quando c'è stata la devastazione dei tifosi olandesi nell'ultima partita contro la Roma. I poliziotti denunciano: noi prigionieri dell'incubo Diaz, del reato di tortura. Il riferimento naturalmente è al G8 di Genova, quello che era successo alla scuola Diaz, per la quale poi l'Italia è stata condannata per appunto reato di tortura. Sono fatti di tanti anni fa, sono fatti del 2001, quindi di 14 anni fa, ma che secondo molte ricostruzioni pesano sull'atteggiamento che oggi la polizia ha, e gli ordini che il Viminale appunto o i capi della polizia o chi operativamente decide come gestire una manifestazione dà appunto gli ordini che dà ai poliziotti per strada. Scrive Maurizio Belpietro: che senso ha stupirsi per ciò che è accaduto a Milano? Era tutto ampiamente previsto, tutto assolutamente scontato, e anche in questo caso appunto si ipotizza che sull'atteggiamento pesino molto i fatti del G8 di Genova. Ora sono tutti stupiti e indignati, ma già si sapeva come sarebbe andata a finire tra giudici che liberano i delinquenti e agenti. Sapete che nei giorni precedenti, nei primi giorni di questa settimana, erano stati arrestati alcuni antagonisti e poi però rilasciati. C'è un intervento di Corrado Passera Corrado Passera, sapete, il fondatore di questo partito Italia Futura, che commenta le parole di Renzi, che sono state quattro teppistelli, figli di papà, e Corrado Passera dice è un modo per fuggire le responsabilità. La prima pagina del Fatto Quotidiano è invece dedicata alle elezioni regionali, un altro fatto di cronaca, diciamo, che viene oscurato dalla cronaca più stretta, però in realtà tra pochi giorni in molte regioni si vota, e in questo caso il Fatto, come già ha fatto molto spesso in passato, si occupa in particolare delle elezioni che ci saranno in Campania, con quel candidato De Luca, che in realtà tecnicamente, siccome è indagato per abuso d'ufficio, non sarebbe nemmeno candidabile per la legge Severino; se vincesse decadrebbe, ne abbiamo parlato tanto. E ieri in campagna elettorale è andato anche Ciriaco De Mita, ex segretario della DC, a rendergli omaggio, e quindi il Fatto Quotidiano titola con un titolo molto forte: il bacio di De Mita a De Luca e l'orda degli impresentabili. E si riassumono un po' anche tutte le altre elezioni regionali dove ci sono appunto dei candidati che, secondo il Fatto, restano impresentabili. A metà pagina il titolo sull'Expo: prima l'assalto black bloc, poi crolla un pezzo di padiglione. Sapete che ieri è crollato un pezzettino del padiglione turco, è stata ferita una ragazza, ma solo leggermente, e appunto diciamo che il fatto si concentra su questo piccolo fatto, piccolo avvenimento negativo che sicuramente c'è stato, ma insomma sappiamo anche quanto sia positivo per altri versi il quadro di Expo. Il manifesto sovra Expo, il titolo è perché sapete che sicuramente lo hanno detto anche molti commentatori, tra i perdenti di questa prima giornata di questa inaugurazione dell'Expo il primo maggio con le devastazioni a Milano sono tutti quelli che cercavano magari di far discutere sugli aspetti più controversi di Expo, quindi la corruzione, la lievitazione dei costi, il fatto che non si sa bene che cosa succederà dopo, insomma tutti questi temi. E quindi il Messaggero, da un lato la violenza esibita da pochi imbecilli su cui i media si sono accettati con morbosa eccitazione, dall'altro la gran cassa tritatutto del governo Renzi, a uscirne malconce sono le ragioni della protesta sacrosanta contro quest'Expo che pretende di nutrire il mondo con la ricetta delle multinazionali. Avvenire, un titolo molto positivo, partenza forte, anche perché ieri c'è stata la dichiarazione di Papa Francesco che ha detto un'occasione per globalizzare la solidarietà. E, tra l'altro è stato inaugurato anche il padiglione del Vaticano, l'ha inaugurato Monsignor Ravasi che avete sentito prima, prima della nostra rassegna stampa e prima di Oltretevere, e c'è molto ottimismo anche sul fatto che sì, ci sono queste polemiche sulla presenza delle multinazionali, sulla cosiddetta ricetta delle multinazionali per nutrire il pianeta, però sicuramente il tema del cibo e anche della fame nel mondo sarà al centro non soltanto di tanti dibattiti intorno a Expo, ma proprio di tanti incontri all'interno di Expo. Ma vediamo le prime le pagine interne dei giornali. Intervista Angelino Alfano, ministro dell'Interno, di cui la Lega e anche altri esponenti dell'opposizione ha chiesto le dimissioni. Una lunga intervista a pagina 5 del Corriere di Fiorenza Sarzanini, vi leggo alcune domande interessanti. Perché non avete disposto la sospensione di Schengen in modo da evitare l'arrivo degli stranieri? Sapete che Schengen è la regola che dà il libero accesso alle persone, la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea. Sappiamo benissimo che spostandoci all'interno dell'Unione Europea nessuno di noi ha neppure bisogno di mostrare la carta d'identità, quindi quelli che venivano dall'Unione Europea, dei Black Bloc si intende, hanno avuto lo stesso privilegio. La risposta di Alfano: perché si erano dati appuntamento dopo la devastazione di Francoforte durante il vertice della BCE un mese e mezzo fa. Ricorderete che anche a Francoforte auto bruciate, disastri, vetrine infrante, sempre i Black Bloc per protestare quella volta contro la nuova sede della Banca Centrale Europea, ritenuta uno spreco di denaro, e poi la Banca Centrale Europea stessa ritenuta un simbolo appunto da abbattere, così come le filiali delle banche che sono state distrutte qui a Milano. Continua Alfano: non potevamo chiudere le frontiere per settimane, ma soprattutto non volevamo creare difficoltà ai visitatori di Expo, sarebbe stato un successo per i Black Bloc. Le forze dell'ordine hanno saputo gestire la piazza in modo egregio pur senza arrivare a provvedimenti tanto drastici. E poi chiede Fiorenza Sarzanini: a questo punto però non ci sono i presupposti per procedere per decreto e cambiare alcune regole, come per esempio la possibilità, lo hanno spiegato molti esponenti della polizia nei giorni scorsi, sapete che per esempio nel caso dei tifosi violenti del calcio possono essere arrestati anche non in flagranza di reato ma qualche giorno dopo, dopo essere stati accusati di alcune violenze. Non può essere fatto per esempio nel caso dei manifestanti, e allora altre ipotesi sul campo, cambiare questa regola. E quindi Fiorenza Sarzanini chiede: non crede ci siano i presupposti per procedere per decreto? Sono più favorevole al disegno di legge con corsia preferenziale, in ogni caso ne discuteremo nelle prossime ore, intanto daremo uno strumento più efficace ai prefetti. Quale? Stiamo lavorando per i divieti preventivi, come avviene per le partite di calcio. Quando c'è un alto indice di pericolosità sarà proibito sfilare nel centro delle città, proprio come già avviene quando si impedisce ai tifosi di andare in trasferta. Appunto, avevamo visto su Libero quest'altra ipotesi sul campo di impedire appunto queste manifestazioni nei centri storici. Un'altra notizia che è stata oscurata è quella del terremoto in Nepal. Ormai sono passati parecchi giorni, non c'è più speranza di trovare le vittime. Il bilancio più o meno definitivo è di 7.000 morti e altrettanti feriti e chissà quanti sfollati. Lorenzo Cremonesi, che è ancora in Nepal, ci racconta quello che oggi viene definito il popolo dimenticato del Nepal, tra i fierissimi Gurkha, nel cuore puro del paese, epicentro del sisma. Si si vedono solo rovine e morte, gli aiuti vanno tutti a Kathmandu e sull'Everest, qui da noi non viene neppure un medico. Sapete che anche sulla gestione degli aiuti sono state fatte molte polemiche. Su Internazionale di oggi c'è una vignetta, Internazionale di questa settimana in edicola da si poteva comprare venerdì, non ieri perché i giornali non erano in edicola, si poteva comprare anche ieri perché non settimanale. In ogni caso c'è una vignetta con il Nepal diviso in due, dalla parte tutta una parte tutte le persone normali, diciamo, e dall'altra spunta invece una manina con in mano una banconota e gli aiuti vanno lì. Ci sono appunto molte polemiche su come sono stati gestiti gli aiuti. Vi dicevo, se volete sapere tutto sulla questione delle pensioni, pagina 7 del Sole 24 Ore, pensione e recuperi a partire da 4.700 euro, articoli di Fabio Venanzi e Davide Colombo che spiegano appunto questa intricata questione dopo la sentenza della Corte Costituzionale. E poi vi segnalo un bell'articolo di Stefano Salis, che ieri ha seguito Dario Franceschini, il ministro dell'istruzione e della cultura, dei beni culturali, che era a Milano per l'inaugurazione della Pietà del Rondanini e della Fondazione Prada. Franceschini, gliel'ho sentito dire anch'io, ha detto: questo potrebbe essere il decennio di Milano, capitale europea. Dopo Barcellona e Berlino, tocca a voi milanesi, ci ha detto ieri. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, e ci ritroviamo per l'ultima parte della nostra rassegna. Vi segnalo dal Sole 24 Ore una curiosità: sulla prima pagina di Finanza e Mercati c'è una parte della prefazione di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus, che ieri ha vinto con parecchie giornate di anticipo il suo quarto scudetto di fila, perché Massimiliano Allegri ha scritto la prefazione al libro di Marco Reggio, Scelta di campo, il calcio come metafora della cooperazione, che verrà presentato al Salone del Libro di Torino, che arriverà molto presto, il libro verrà presentato venerdì 15 maggio. In questa prefazione, e quale giorno migliore per pubblicarla, Allegri dice: lo spirito di squadra è il segreto per vincere. Parole che sicuramente sono vere in assoluto, però quando le dice appunto un allenatore che ha vinto quattro scudetti di fila, tra l'altro sappiamo tutti che quando è arrivato alla Juventus nessuno probabilmente avrebbe detto che avrebbe previsto questo grande successo, quindi sono parole che sicuramente vere sulla carta, ma nel suo caso vere proprio anche sul campo. E poi vi segnalo dalla Repubblica due pagine intitolate Il diario di un black bloc, le ha curate Paolo Berizzi, e spiega proprio che cosa fa un black bloc, questo nuovo tipo di black bloc, quello che entra nel corteo vestito normalmente, poi si veste di nero per non essere riconosciuto e poi a un certo punto si spoglia di tutta la sua divisa da black bloc per di nuovo mimetizzarsi. Loro sprecano miliardi, noi odiamo tutti, ecco come li abbiamo beffati. Appunto, vengono, questo diario è frutto dei colloqui di Berizzi con alcuni di questi black bloc. Vi dicevo la nascita della bambina e l'analisi di John Lloyd, che appunto spiega come a volte, insomma, gli eventi hanno questi incroci astrali strani. Sapete che in Inghilterra si sta per votare, un voto molto incerto, e l'analisi di John Lloyd è: se una bimba può spostare l'equilibrio delle elezioni. Perché? Perché i conservatori sono visti come più fedeli alla famiglia reale, paladini dell'unità della nazione, e naturalmente la famiglia reale, con la nascita di questa bambina, entra in una rinnovata fase di popolarità. Per cambiare un po' argomento, dalla Repubblica un'analisi di Jaime D'Alessandro che sul traffico del web: troppi video, il web scoppia, tra soli 15 anni rischia il collasso. Gli esperti della Royal Society: il traffico dati cresce a dismisura, la fibra ottica non basta più. Velocemente l'ultima notizia di economia dal Messaggero: le dichiarazioni di Juncker, il Presidente della Commissione Europea, che ieri è tornato a dire: non ci sarà default per la Grecia, non ci sarà Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro. Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei dedicarlo tutto ai supplementi culturali, cominciando naturalmente dal nostro e leggendovi il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Canta. I mezzi più diretti per unirsi a Dio in questo mondo fisico sono la musica e il canto. Anche se non sai cantare bene, canta da solo, canta nell'intimità della tua casa, ma canta. Sembra di sentire l'eco di Sant'Agostino nel suo commento ai Salmi, parola greca che rimanda al canto e alla musica. Chi canta non soltanto canta, ma ama colui che canta. Nel canto c'è l'effetto di colui che ama. Per la stessa ragione, Rabbi Nachman di Batslav, autore del testo sopracitato, suggerisce di non spegnere il respiro della voce che canta, anche se un po' stonata. Sempre secondo la tradizione giudaica, la rana gracidante è convinta di lodare Dio più di Davide, perché lo fa con tutto il suo essere, trasformandosi in lode vivente. In un mondo cupo e romoroso, il canto è come uno squarcio di luce. È un po' questo che ci insegnano i giovani a loro modo, con l'amore viscerale per la musica. Cassiodoro, intellettuale cristiano del VI secolo, ammoniva: se continueremo a commettere ingiustizia, Dio ci lascerà senza la musica. E poi il memorandum di Roberto Napoletano, che parte da una lettera ricevuta e ancora una volta torna sulla questione di riprendere un po' i valori forti del nostro paese, di quelli che avevano guidato la ricostruzione post bellica, e quindi la memoria e il futuro del paese. E poi l'apertura, la copertina è dedicata a una nuova iniziativa del Domenicale, perché da venerdì prossimo, il 10 maggio, saranno in edicola alcuni racconti. Si inizia con racconti d'autore, si inizia con un racconto di Andrea Camilleri, di cui qui si anticipa una parte, quindi Giallo alla stazione di Belcolle. Vi dicevo, l'inaugurazione ieri della Fondazione Prada poi sarà aperta dal 9 maggio, e quindi l'articolo di Salvatore Settis, che è da sempre collaboratore del Domenicale del Sole 24 Ore, ma che ha anche curato questa mostra sulla serialità nell'antichità, Bronzi e marmi a ripetizione. La nuova sede aprirà con una mostra dedicata alla serialità della scultura greca e romana, e Salvatore Settis appunto ce la racconta proprio da curatore. Tra l'altro, contemporaneamente lui ha curato anche una mostra che ci sarà alla Biennale di Venezia, sempre alla Fondazione Prada di Venezia. Però la lettura del Sole 24, del Corriere della Sera, la copertina affidata a Peter Doig, e poi le prime due pagine interne, molto divertente questo articolo di Alessandro Piperno sull'ipocondria. Che FIFA, si intitola. L'ipocondria ha stravolto i miei 20 anni. Alessandro Piperno racconta la sua esperienza personale, nonostante i lucidi consigli di un veterinario, e appunto si ripercorrono anche un po' questa che può essere una vera e propria malattia, e anche alcuni libri che ne trattano, e poi anche alcuni testi fondamentali classici, come a partire naturalmente dal Malato immaginario di Molière. Però sostanzialmente è Alessandro Piperno che con la sua verve ci racconta che cos'è l'ipocondria per lui. E poi ho trovato molto interessante questo articolo di Edoardo Boncinelli, genetista, che invece racconta la più grande battaglia della storia della medicina, che è quella tra batteri e virus. C'è una guerra eterna, perché è appassionato di divulgazione scientifica, comunque di temi medici. Ci sono parecchi libri che Boncinelli cita e che appunto trattano questo tema. Poi in realtà questo è un articolo che è nelle pagine interne del Corriere, ma ve lo cito adesso perché è di Stefano Bucci. È un'intervista a Rem Koolhaas, che come vi dicevo è l'architetto che ha firmato la Fondazione Prada, e che dice: la periferia d'oro di Rem Koolhaas non un'Arcadia ma un campus. E davvero vi invito a visitarlo. Tra l'altro periferia fino a un certo punto, perché la stazione è Porta Romana, e chi è a Milano sa che di fatto sono 4 stazioni di metropolitana dal centro, quindi ed è veramente appunto un luogo, la Fondazione Prada, dove ci sono tanti posti diversi da visitare. Passiamo al supplemento del Messaggero Macro. La copertina è dedicata alla carica dei nuovi padri. Dopo anni di eclissi e persino abdicazione, la figura del papà torna centrale nella famiglia, non solo per il bene dei figli. A rilanciare il ruolo paterno è un libro americano che sottolinea come debba essere tutelato anche dalle politiche sociali. E ora il sinodo sulla famiglia si prepara a dare forza al genitore divenuto invisibile negli anni, a volte diciamo colpevolmente, a volte no. La Domenica della Repubblica invece ospita un lungo articolo di Alessandro Baricco, sicuramente molto divertente per chi ama Baricco e per chi ama il calcio. La partita più bella del mondo, infatti. Siamo domenica prossima, ci sarà quella che viene definita il super classico, cioè il derby tra Boca Juniors e River Plate. Se Dio esiste, si dice in Argentina, domenica sarà davanti alla TV. E questa è appunto la partita è oggi alle 18:15, il 3 di maggio, quindi la partita più bella del mondo, e viene raccontata con tutte le metafore del caso da Alessandro Baricco. Un altro bellissimo articolo sulla Domenica della Repubblica è dedicato a Roland Barthes, Barthes, le schede, i frammenti di Roland Barthes, le schede in cui annotava i discorsi amorosi, appunti, disegni e lettere. Nell'anno del centenario Paligi celebra l'intellettuale che volle mettere ordine ai sentimenti senza poter evitare di esserne travolto. Straparlando, la serie di interviste fatte da Antonio Gnoli su Due Pagine oggi è dedicata a Ilaria Occhini, la grande attrice. Non sarò mai pacificata, ancora balbetto la mia prima battuta. E poi vi segnalo anche un'ultimissima cosa: siccome sabato, come vi ho detto, non erano in edicola i giornali, con Il Sole 24 Ore c'è Plus, che avrebbe dovuto essere in edicola sabato, con Repubblica e Il Corriere ci sono Io Donne di Repubblica, e dalla Stampa quel colloquio, per chi, visto che abbiamo appena parlato di calcio con Baricco, quel colloquio di Michele Brambilla su Berlusconi, Berlusconi raddoppia, al presidente resto io. Era l'ultima segnalazione, grazie a Peter Besca, no, non Peter Bescafè in regia, scusatemi, aiuto, Carmelo Lauricella, scusa Carmelo, ogni tanto mi confondo, insomma anch'io sono un po' stordita la domenica mattina. Grazie a Carmelo Lauricella in regia per avermi tenuto nei tempi. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.